giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Visita a Trieste del ministro degli esteri, sottosegretario della presidenza del Consiglio Antonio Tajani, che ha toccato i principali punti del dibattito internazionale italiano. L'incidente mortale di Maniago, in cui ieri ha perso la vita un 22enne, la procura è pronta ad avvisi di garanzia per disporre l'autopsia, mentre il comune di Vajont intende proclamare il lutto cittadino. E dell'incidente di ieri si è parlato alla riunione a Bruniera della Filcar CISL Legno ed Edilizia. Domani dalle 7 è previsto un presidio fuori dai cancelli della fabbrica. Il progetto di impianto di biometano tra i comuni di Pagnaco e Tavagnaco divide i cittadini, già organizzati in comitati, ovviamente opposti. Il Policlinico Triestino ha manifestato pubblico interesse per una gestione in partenariato pubblico-privato dell'intero ospedale di Spilimbergo. A Palazzo Antonini a Udine è esposto uno dei 13 bassorilievi assiri scoperti nel Kurdistan iracheno dagli archeologi dell'Università Friulana. In arrivo a Gorizia i delegati del progetto Interreg per l'incontro annuale dell'iniziativa che finanzia lo sviluppo regionale e la cooperazione territoriale. Alle 18:31 minuti e 28 secondi ancora un cordiale buongiorno da Maria Spezia e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Il vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, Antonio Tajani, questa mattina in visita all'iniziativa centroeuropea ha confermato in tempi brevi l'ingresso dei paesi balcanici nell'Unione Europea. Sentiamo. Dopo il suo arrivo, il ministro degli esteri Antonio Tajani, accolto dal segretario dell'INCE Franco Dalmas, ha firmato il libro d'onore nella sede dell'INCE a Trieste. La sua visita per confermare, come ha sottolineato, l'impegno del governo italiano per favorire in tempi rapidi l'adesione dei paesi balcanici all'Unione Europea. Parliamo di Serbia, Croazia, Romania, Slovacchia, i cui rappresentanti erano presenti oggi alla sede dell'iniziativa centroeuropea. Sono 7 in tutto i paesi che hanno iniziato il percorso di adesione. Il ministro ha spiegato che bisogna dimostrare di volere i paesi balcanici in Europa, un messaggio di amicizia che deve arrivare forte. Tajani ha parlato della necessità di un collegamento Belgrado-Trieste che possa favorire esportazioni e importazioni tra i due paesi e l'Europa, collegamento di cui si è discusso nella sua recente visita in Serbia. Vi aspettiamo, ha detto il ministro degli esteri, per essere parte insieme di un'Europa più forte, anche in un'ottica di trattativa sui dazi americani. Tra poco il punto stampa e quindi la partenza del ministro verso Monfalcone prima della tappa a Pordenone nel pomeriggio. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il comune di Vajont deciderà oggi come procedere per commemorare la morte di Daniel Tafa, il giovane di 22 anni trafitto da una scheggia incandescente in un incidente sul lavoro avvenuto ieri notte in un'azienda di Maniago. Già convocata una seduta del Consiglio Comunale per questa sera, in cui sarà discussa la proclamazione del lutto cittadino nella giornata delle esequie del giovane che lascia i genitori e due fratelli di 17 e 12 anni. Per oggi è anche previsto l'arrivo in procura a Pordenone del fascicolo redatto dai carabinieri e dagli ispettori dell'agenzia sanitaria sulla scorta dei rilievi effettuati in fabbrica. L'attrezzatura è stata posta sotto sequestro, saranno firmati gli avvisi di garanzia nei confronti delle figure che hanno responsabilità nella catena della sicurezza sul lavoro all'interno del sito produttivo. Si tratta di atti a tutela delle difese, in questo modo gli indagati potranno nominare propri periti per l'autopsia e per eventuali accertamenti tecnici nella postazione dove avvenne la tragedia. A Bruniera l'assemblea della Filca CISL Legno ed Edilizia del Friuli Venezia Giulia ha parlato anche dei temi della sicurezza sul lavoro. Il dibattito si è poi incentrato sulla morte del 22enne a Maniago. Domani dalle 7 è previsto un presidio fuori dai cancelli dell'azienda. Il tema della sicurezza è al centro del congresso della Filca CISL del Friuli Venezia Giulia, riunito a Bruniera per il rinnovo dei vertici e degli organismi il giorno dopo la morte del 22enne alla STM di Maniago. Domani dalle 7 è previsto un presidio fuori dai cancelli della fabbrica. Gianni Pasiane, segretario generale uscente Filca CISL. I dati degli infortuni avuti nel Friuli Venezia Giulia si aggirano attorno ai 16.000 casi nell'anno 2024 e 20 casi mortali, di cui 3 in edilizia. Portare la cultura della sicurezza, la consapevolezza del rischio che c'è nel posto di lavoro è la priorità. Degli infortuni denunciati nel 2024, 1260 riguardavano il comparto delle costruzioni, soprattutto per cadute dall'alto. Ottavio De Luca, segretario generale aggiunto Filca CISL. L'ispettorato del lavoro ci dice che 7 cantieri su 10 sono irregolari e quando noi andiamo a fare i controlli non rileviamo queste problematiche, per cui ci vuole una corresponsabilità fra tutti gli attori, sindacati, istituzioni e parti datoriale. Pesa poi la mancanza di manodopera, solo in edilizia è stato riferito, si perderà il 40% di addetti. Negli ultimi 13 anni i lavoratori under 30 sono scesi di 10 punti percentuali. Tra le altre sfide del settore legno edilizia, arrivare a un contratto unico edile per i 18.000 occupati in regione e scommettere sul welfare di comunità. Brugnera, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pagina del tempo, cielo da sereno poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 16,5 gradi, Udine Gorizia 17, Pordenone 17,5 gradi, Tarvisi 8 gradi, Piancavallo 8,5 gradi, Forni di Sopra 12 gradi, 14 i gradi e mezzo, in quota sul Lussari 1 grado e sullo Zoncolan 3. Tornando sulla costa, grado Lignano 16,5 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore: cielo variabile con possibili piogge sparse o rovesci, più probabili sulla zona montana e sull'alta pianura. Verso sera su bassa pianura e costa, possibili anche isolati temporali. Quota neve oltre 1500-1800 metri, soffierà vento da nord-est moderato in quota, bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, a tratti anche sostenuta a Trieste sul Carso. Apriamo le pagine della cronaca. Un 28enne straniero è ora al coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Trieste in seguito all'episodio avvenuto lo scorso 13 marzo in un supermercato cittadino in cui l'uomo era stato fermato da un addetto all'antitaccheggio perché aveva cercato di oltrepassare le casse senza pagare la merce prelevata dagli scaffali. Ne era seguita una colluttazione in cui l'intervento di un agente della polizia locale fuori servizio che si trovava sul posto era riuscito a far bloccare il tentativo di fuga del giovane, che ora deve rispondere dei presunti reati di rapina, rifiuto delle generalità, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri di Sacile, nel corso di controlli svolti nello scorso fine settimana sulle strade del territorio, hanno individuato 8 automobilisti che guidavano in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, inclusa tra loro una persona al volante con una patente straniera risultata falsa, ora deferita in stato di libertà alla procura di Pordenone per uso di atto falso. Negli altri casi si tratta di uomini, per lo più di età compresa tra i 22 e i 27 anni, oltre a un 21enne neopatentato sottoposto alla norma alcol zero, ma alla guida con un tasso alcolemico di 0,6 grammi per litro. 2 invece 50enni, per i quali sono emersi valori più alti e a cui è stato inflitto il sequestro amministrativo delle auto su cui viaggiavano. I controlli sono avvenuti a Budoia, Polcenigo, Fontanafredda e Aviano e proseguiranno anche nelle prossime settimane. I militari della Guardia di Finanza della tenenza di Ronchi dei Legionari in servizio all'aeroporto hanno scoperto un'evasione fiscale di oltre 60.000 euro per il mancato versamento dell'imposta erariale sui voli aerotaxi. Si tratta di una specifica imposta istituita nel 2011, il cui ammontare è determinato in funzione della distanza della tratta percorsa. Le indagini hanno consentito di accertare come l'imposta dovuta per i voli corrisposta dai passeggeri ai vettori non fosse stata poi versata alle. L'indagine ha evidenziato come una dozzina di ditte di aerotaxi non abbiano temperato i versamenti dell'imposta per il trasporto di circa 420 passeggeri. Complessivamente è stata contestata un'evasione di imposta di circa 63.000 euro, a cui si aggiungono le sanzioni amministrative pari al 30%, per un totale complessivo di oltre 80.000 euro. Il Policlinico Triestino ha manifestato interesse per una gestione in partenariato pubblico-privato dell'intero ospedale di Spilimbergo. Ne abbiamo parlato con il presidente Guglielmo Danelon. L'ospedale di Spilimbergo verrebbe completamente ristrutturato, rifornito di nuova tecnologia, tra cui la risonanza magnetica, oggi assente. Verrebbero confermate la medicina interna e il pronto soccorso, implementati reparti di ortopedia, riabilitazione e lungodegenza, potenziati gli ambulatori con nuove specialità e, a regime, sarebbero 262 i dipendenti della struttura. Svelato in anteprima per noi il progetto che il Policlinico Triestino propone alla Regione per la gestione in partenariato pubblico-privato dell'ospedale di Spilimbergo. Il presidente e amministratore delegato dell'azienda di sanità privata triestina Guglielmo Danelon risponde alle nostre domande in maniera molto chiara e parla della volontà di investire nell'ospedale friulano 35 milioni di euro nell'arco della durata della concessione. Sarebbe per il Policlinico Triestino, che opera da oltre 100 anni e conta 5 case di cura, la prima esperienza di cogestione di una struttura pubblica. Chiediamo perché il privato può garantire ciò che il pubblico non dà. L'ospedale di Spilimbergo, spiega Danelon, si trova in una posizione periferica, una gestione privata è più flessibile, può specializzare la struttura su alcuni settori strategici, investire più facilmente in tecnologia. E a proposito del personale, Danelon spiega che i nuovi lavoratori saranno assunti con contratti di sanità privata. Per quanto riguarda il personale attualmente impiegato, potrà scegliere se restare a Spilimbergo, entrando a far parte del team del Policlinico Triestino, mantenendo retribuzione e diritti acquisiti, o rimanere dipendenti di ASFO in altre sedi della sanità pubblica. Se il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, dice «Non sono io un fondamentalista del no a prescindere al privato convenzionato, ma aspetto dettagli da Riccardi», scettici i sindacati che temono per qualità e per i lavoratori. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si infiamma il dibattito sul futuro del turismo montano dopo le parole di ieri dell'ex presidente degli albergatori Schneider, che faceva notare le difficoltà data la penuria di neve. Quello che sta facendo la regione per il nostro territorio è sotto gli occhi di tutti, i forti investimenti che sicuramente hanno una strada giusta e condivisa con le associazioni di categoria stanno portando i giusti risultati. Da quelle che sono le informazioni in mio possesso, sono in programma delle azioni proprio volte a cercare di colpire altri target oltre a quelli classici, appunto per aiutare le aziende in quei momenti di calo fisiologico e per aiutare la destagionalizzazione un po' su tutti i territori della nostra bella regione. Il presidente regionale di Federalberghi, Enrico Guerina, voglia richiudere una polemica nata per un malinteso. Gli albergatori del Friuli Venezia Giulia tendono la mano alla regione dopo le parole dell'ex presidente Schneider sul turismo montano vista la penuria di neve. Schneider aveva parlato di stagione problematica per la ricettività, parole che hanno irritato l'assessore al turismo Bini, che ha preferito non presenziare l'incontro di Gorizia sulla sostenibilità del settore e il suo valore sociale. Il cambiamento climatico però c'è ed è innegabile e gli alberghi devono essere in prima linea per investimenti, sostenibilità e soprattutto destagionalizzazione. È importantissimo investire e lavorare sul prodotto che noi offriamo ai turisti, appunto per farci trovare pronti a tutte quelle che sono le loro esigenze e voglia di visitare il nostro territorio. A Gorizia, durante l'assemblea sul valore sociale generato dal turismo sostenibile organizzato dagli albergatori, si è affrontato anche il discorso dei costi dell'energia, che rischiano di aumentare ulteriormente i prezzi per i turisti in estate, tanto al mare quanto in montagna. È chiaro che non possiamo scaricare tutti i costi sul turista, ma è altrettanto chiaro che un aumento dei prezzi ponderato deve esserci per mantenere le giuste marginalità all'imprenditore. La sostenibilità però si ottiene anche con l'ottimizzazione dei costi a partire dalla riduzione degli sprechi e all'opportunità di usare strumenti di intelligenza artificiale per individuarli, come spiega Chiara Canzoneri, presidente di Federalberghi di Gorizia. Bisogna fare il sistema per poterseli permettere, perché sono ancora un po' una novità e quindi dobbiamo fare gruppo per poterli capire e per poterli sfruttare al massimo delle loro potenzialità. Gorizia, Andrea Saula, TGR Friuli Venezia Giulia. Una copia a grandezza naturale di quasi 5 metri di lunghezza per 1,5 metri di altezza di uno dei 13 bassorilievi assiri scoperti nel Kurdistan iracheno dagli archeologi dell'Università di Udine e oggi in esposizione a Palazzo Antonini. Il ritrovamento delle opere rupestri fece ottenere agli studiosi dell'Ateneo il premio internazionale Khaled al-Sand, intitolato all'archeologo siriano custode del sito di Palmira che fu trucidato dall'ISIS 10 anni fa, premio conferito nel 2019. L'opera riproduce uno di questi 13 esemplari di arte rupestre scolpiti nella pietra del canale di irrigazione del VII secolo a.C. che serviva alla campagna circostante l'antica Ninive, capitale dell'impero assiro. I bassorilievi rappresentano un sovrano assiro in preghiera di fronte alle statue delle 7 maggiori divinità dell'impero. La copia del rilievo, realizzata dall'artista Serena Del Piccolo, è stata concessa in comodato ventennale dei Civici Musei di Udine, che la esposero tra il 2022 e il 2023 in una grande mostra in castello. L'esposizione della replica del rilievo di Faides era accompagnata fino al 28 aprile da una mostra fotografica e una visita virtuale attraverso QR code che consentirà di approfondire la conoscenza del sistema di irrigazione assiro del sito di Faida e dei suoi eccezionali bassorilievi. Il progetto di costruzione tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco di un impianto di biometano sta già mobilitando due comitati opposti. Ieri sera, prima riunione, a cui ne seguirà un'altra lunedì. Da un lato un gruppo di 12 aziende agricole, due cooperative riunite in una società consortile. Dall'altro due sindaci e parte della cittadinanza contrari. Oggetto del contendere, un impianto di biometano da 11 milioni di euro da realizzarsi in zona artigianale di Pagnacco a 600 metri dalle prime abitazioni di Branco di Tavagnacco. Produrrebbe energia equivalente al consumo annuo di 1.500 famiglie, ricavi lordi annui stimati per la società consortile Pagnacco Biometano in 2,8 milioni di euro. Richiesta autorizzativa arrivata in regione a novembre, inizialmente dichiarata improcedibile, poi aggiornata a dicembre con avvio della conferenza dei servizi. Procedimento sospeso adesso per la richiesta di integrazione a cui la società sta provvedendo. Non è contrario al biometano, ma ritiene inadatta la zona scelta per l'insediamento il sindaco di Pagnacco, Laura Sandruvi. La cittadinanza teme il rilascio di odori e l'aumento del traffico per il conferimento delle 33.000 tonnellate di reflui zootecnici, 7.000 tonnellate di siero di latte e 10.000 tonnellate di colture, escluse quelle edibili, che lo alimenterebbero. Alcuni rappresentanti delle aziende artigianali hanno costituito un comitato per la raccolta firme contraria al progetto. Pierpaolo Alagna, progettista incaricato, risponde che è stimabile in 10 mezzi giornalieri in più l'aumento del traffico veicolare. Dal punto di vista odorigeno, poi, l'impianto sarebbe a tenuta stagna e chiuso in tutti gli ingressi che potrebbero dar luogo a emissioni. Emilio Gottardo, responsabile energia di Legambiente, invita a riflettere sul fatto che i rifiuti agricoli e i reflui zootecnici, se non correttamente smaltiti, vanno a inquinare falde e suoli, meglio avviarli a cicli virtuosi di produzione, e invita parimenti a costituire un comitato di monitoraggio composto da cittadini e impresa che possa seguire tutto l'iter, oltre a suggerire alle amministrazioni comunali di chiedere le giuste compensazioni. In passato la cooperativa proponente ha realizzato in altri comuni parchi giochi, piste ciclabili, sistema autostrade o impianti fotovoltaici. I comuni potrebbero chiedere fino al 2-3% del reddito annuo nel quinquennio realizzato dalla società. Pagnacco, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il CDA della Danieli ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2024 che evidenzia una redditività operativa lorda in crescita del 2% e un utile netto in linea con le previsioni del gruppo. Al 31 dicembre 2024 i ricavi operativi sono pari a 2.000 milioni, in calo del 3% rispetto al 31 dicembre del 2023. L'utile netto corrisponde a 125 milioni, più 27%. La posizione finanziaria netta si mantiene positiva, elevata e in linea con la chiusura del periodo precedente. Il portafoglio ordini del gruppo ammonta al 31 dicembre 2024 a 5.388 milioni e non include l'importante contratto di circa un miliardo con un cliente svedese. Nei sei mesi si confermano, come precisa un comunicato, le indicazioni di un calo di redditività nella produzione di acciaio e quelle in miglioramento nel settore di progettazione e fornitura di impianti siderurgici. Tappa Trieste, il progetto dal sangue versato al sangue donato, iniziativa promossa dalle associazioni donatori nati e QS15 con la teca che racchiude i resti dell'auto di scorta del giudice Falcone, esplosa per mano della mafia nel maggio del 92. Obiettivo dell'iniziativa, unire la memoria delle vittime di mafia alla cultura della donazione del sangue. Il silenzio d'ordinanza è il tricolore che rivela quello che rimane della vettura dei poliziotti di scorta, uccisi con il giudice Falcone a Capaci. Un momento toccante soprattutto per gli studenti che non hanno vissuto quel momento storico. Vedere questo dal vivo provoca molte emozioni. Vedere dei reperti come questi rendono più reali gli argomenti affrontati e creano più consapevolezza, diciamo, in noi studenti. Tina Montinaro mantiene viva la memoria del sacrificio di suo marito, il poliziotto Antonio Montinaro, morto con Rocco Dicillo e Vito Schifani nella Fiat Croma, soprannominata Quarto Savona 15. È importante parlare con loro, è importante dirgli che devono essere dei cittadini consapevoli e per essere consapevole tu devi sapere che cosa è successo nel nostro paese. Bisogna creare degli anticorpi che rappresentino la saldezza dei valori, ha detto il prefetto Pietro Signoriello, che ha parlato di fenomeno globale delle mafie. Oltre a promuovere la legalità, l'iniziativa vuole sensibilizzare la donazione del sangue tra i più giovani. Claudio Saltari, presidente nazionale Donatori Nati. Per un'associazione come Donatori Nati, che è un'associazione che ha una matrice istituzionale e rappresenta la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, conquistare un giovane a alla donazione significa anche portarlo su uno stile di vita più legale e quindi uno stile di vita più salubre. L'evento è poi proseguito con un incontro alla stazione marittima dove Tina Montinaro ha portato la propria testimonianza di lotta alla mafia agli studenti con parole che le sono valse un sentito applauso in piedi. Non permetterei a nessuno di farvi abbassare la testa, anche a piedi nudi ragazzi, ma mai in ginocchio davanti a nessuno. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Più di 600 delegati del programma europeo Interreg sono in arrivo a Gorizia per l'incontro annuale dell'iniziativa che finanzia lo sviluppo regionale e la cooperazione territoriale, un evento che mostra come l'Unione Europea agisce nella pratica nella nostra regione. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Ragione. Si tiene a Gorizia e Nova Gorizia l'incontro annuale del programma Interreg con cui l'Unione Europea investe sui suoi territori. La capitale europea della cultura è stata scelta dalla Commissione europea in quanto territorio di frontiera, laboratorio di collaborazione. A mostrarlo l'attività del JECTGO, il gruppo europeo di cooperazione territoriale tra i comuni di Gorizia, Nova Gorizia e Szentpeter-Vörtyba, strumento per superare le difficoltà nel realizzare compiti comuni tra territori che hanno legislazioni e procedure differenti. Tanti i progetti realizzati in questi anni in settori diversi, dalla mobilità alla salute. Paolo Petizziol, presidente del JECTGO. Siamo riusciti a gestire una struttura per malattie psichiatriche e quindi stiamo aiutando le famiglie al di qua e al di là del confine. Il JECT è al lavoro anche su un progetto per le nuove nascite. Se una signora partorisce a Nova Gorizia, perché io la mando lì, il cittadino può scegliere fra, anzi non è, di diritto dovrebbe essere il cittadino italiano. L'anno di Go 2025 coincide con un momento storico in cui l'Unione Europea è al centro delle discussioni, tra manifestazioni di sostegno ma anche tanti oppositori. Stefano Amadeo, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Trieste. Le scelte che l'Unione Europea ha fatto in questi ultimi, diciamo, 20 anni, mi riferisco alla crisi dei mutui subprime e poi, hanno generato nell'Unione delle risposte che sono state delle risposte in parte contestate. A contribuire a polarizzare le opinioni, il progetto per il riarmo dei paesi europei, Rearm EU, Readiness 2030. È molto importante essere collaborativi con i grandi blocchi che abbiamo a est e a ovest, però che l'autonomia non diventi dipendenza o soggezione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 7 gli interventi per il Friuli Venezia Giulia previsti dal Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali per la Sicurezza nel settore idrico a fronte di un finanziamento totale di oltre 41 milioni di euro. In particolare le iniziative in programma riguardano la dorsale di adduzione a Lignano e Bibione a partire dalla distribuzione dalla centrale di Fauglis, la costruzione di un collegamento tra il canale Sade e la derivazione Ledra-Tagliamento per il recupero parziale dello scarico della centrale di Somplago e la gestione delle emergenze idriche alla centrale di Randaccio. A questi si aggiungono l'adeguamento degli acquedotti di Frisanco, Meduno, Fanna, oltre a Manzano e Premariacco, il risanamento della condotta della costiera triestina e di quella carsica e la connessione tra l'acquedotto Destra-Tagliamento e la dorsale Ovest-Est. Tra le attività del Corpo Forestale Regionale c'è anche il monitoraggio del manto nevoso. Sono 20 le stazioni forestali degli ispettorati di Udine, Tolmezzo e Pordenone che svolgono questo servizio settimanalmente. A detenere il primato di località più innevate della regione è Sella Nevea. La stazione forestale di Pontebba ha effettuato la misurazione nelle vicinanze del rifugio Gilberti nel comune di Chiusaforte e lunedì 24 marzo l'intero strato di neve misurava uno spessore di 306 cm. Il valore massimo misurato il 24 marzo è stato di 650 centimetri però nel 2014, mentre quello minimo registrato è stato di 60 centimetri nel 93. I dati raccolti dal personale forestale vengono poi utilizzati dalla Protezione Civile per elaborare i bollettini valanghe, fornendo informazioni preziose per la sicurezza di escursionisti, scettori e residenti, ma le informazioni acquisite durante il periodo invernale servono anche per la valutazione delle scorte idriche nel periodo estivo. Immigrazione regolare, i modelli italiano e sloveno a confronto nel quadro dell'Unione Europea e la conferenza intesa ad approfondire il fenomeno migratorio in ingresso dalla rotta balcanica. In programma un confronto tra la legislazione italiana e quella slovena, anche alla luce dei recenti sviluppi a livello europeo, in particolare per quanto riguarda i rimpatri. Tra i relatori Bruno Tonnoletti, docente di diritto all'Università di Pavia, le avvocate Caterina Bove dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione di Torino e Ursa Regvar, responsabile al Centro Protezione Diritti Umani di Lubiana, oltre a Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Appuntamento a Trieste, al Palace Suite di Via Dante, dalle 17. Alle 12.55 era questa l'ultima notizia del giornale radio, collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Samuele Montalto e Federico Comar. Da Maria Spezia e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.